La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Nel 2002 ho pubblicato con la casa editrice Marsilio un libro su Majakovskij che si intitola Gelosa di Majakovskij, la cui epigrafe erano dei suoi versi. Voglio essere capito nel mio paese, altrimenti pazienza, gli passerò di fianco obliquo come la pioggia. Lord abundance, bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello. E adesso vorrei leggere il proemio di questo libro, quando spiega perché e in quale situazione l'ho scritto. Quando ho scritto il proemio era il 1999 ed è stato l'anno in cui c'è stata la famosa guerra umanitaria, l'atroce, insensata guerra contro l'ex Jugoslavia, quando abbiamo bombardato Belgrado e dintorni. E quindi così comincia e spiega perché. Gli diceva: vieni qua, piccolino mio. Ma era grande, molto più grande di lei, in ogni senso. E gli tirava indietro i capelli, così sudati dopo ogni declamazione, e lo chiamava Valodia e gli dava ragione in tutto. Lo seguiva sui selciati dentati che lui vedeva e lei no, persa dietro la sua nuca, a Pietroburgo, di notte. Era una vecchia pazza e si era innamorata di Majakovskij, ma lui era morto 70 anni prima. Un po' era anche un bene, così non poteva vederla, coi cernecchi ritinti e gli occhi scerpellini. Una vera vecchia, una rarità nel suo tempo, dove erano tutte ricucite e travestite da ragazze, ma all'epoca di Majakovskij una megera come tante. Non la sopportava più nessuno. Già prima poco, ma adesso il deserto. È diventata noiosa e indigesta a tutti. Parla sempre di lui, studia il russo, inveisce contro Lili Bricche e quel finocchio del marito, si lascia andare a scene di gelosia. Una matta da autobus, infrequentabile. Crede di vivere a Pietroburgo nel 1909, a Mosca nel 30, fino al 14 aprile, quando lui si spara. E lì si ferma tutto. Aveva cambiato tempo e terra. Veniva anche comodo in quel momento, tanto vergognoso per la nostra storia. Frattanto era scoppiata la guerra. Correva l'anno 1999 e si era convenuto di chiamare guerra la gratuita e vigliacchissima aggressione contro i Balcani da parte della vecchia America e della nuova Europa. Fu la prima guerra umanitaria, dove i paesi più ricchi si erano messi a bombardare quelli più poveri per il loro bene. E poi se li guardavano in TV e ci facevano pure la gara della bontà, aggiungendo l'insulto della beneficenza, briciole. Ma sulle bombe non si risparmiava. Fu una guerra agli ospedali, ai treni che trasportavano uomini e oche, ai ponti, al Danubio, ai cani, morti nelle strade di Nish, ai vecchi nei loro giardinetti. La vecchia si vergognava. Prima aveva nome e cognome, rispondeva delle sue azioni, ma ormai era gli italiani quelli che si erano uniti al massacro. Ma lei, sorda, lei era partita. Se fosse rimasta, avrebbe dovuto per forza delinquere, qualche gesto estremo, capitare con la borsa della spesa piena di bombe nella sede del governo italiano e fare saltare tutto. Ma le dispiaceva per sé, nonostante la sua vita non valesse niente. E non lo fece. Si volse a Majakovskij, come le nobili mucche, muovendo appena il muso, semplice come un muggito, prastoie, cacmiciani. With the lights on, it's less dangerous. Here we are now, entertain feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. Yeah. Profilo della vecchia. Non era nemmeno una vecchia molto originale. Una delle 9.000 gattare schedate a Roma, ma anche cagnara, con una vastità di vedute che stupiva tutti. Gatto o cane per lei, uguale. Purché affamati, purché rognosi, purché coi baffi tremanti. Aveva raccolto anche lui come una delle sue bestie, riconoscendolo dai baffi che mai non ebbe. Lo trovò in cucina di mezzogiorno, leggendo una poesia sui fogli unti di cibo bestiale, con peli di gatto appiccicati che parevano virgole. Il poeta le aborriva. Mentre i gatti urlavano con voci di dannati, aspettando la sbobba, nel giardinetto del seminterrato, fra piante mitologiche attorte. Ma ella non ode. Un'altra voce la chiama, più forte di qualunque miagolio terreno. Vedo tutto chiaramente. Intoccabile e invulnerabile, si leva sui secoli il laboratorio delle resurrezioni umane. Eccolo, il sereno chimico dalla fronte spaziosa, si acciglia dinanzi all'esperimento. Nel libro Tutta la Terra ricerca un cognome. 20° secolo, chi resuscitiamo? Majakovskij, no, meglio un tipo più brillante. Non era poi granché bello, quel poeta. Io allora griderò da questa pagina d'oggi. Non sfogliare più oltre, resuscita me, me, resuscitami. Non foss'altro perché da poeta tu atteso, rinnegando la stupidità di ogni giorno. Resuscitami, anche solo per questo. Resuscitami. Voglio vivere tutta la mia vita. La vecchia disse, ti resuscito io. Che ci vuole? Mi metto subito a scrivere la tua storia. Come nell'adolescenza si cerca l'amore nei libri, che nella vita si sta freschi. Infanzia di Majakovskij. A Baghdadi, in Georgia, dove era nato il 17 luglio del 1894, figlio di un ispettore forestale solenne in foto come un maresciallo dell'impero, e amava Pushkin. Rifuggiva le piccole porcherie infantili. Andava orgoglioso della sua ignoranza sessuale, che preservava con cura. Sapeva come nasce un vitello, un uomo e un cane, ma non si compiaceva, non aveva confidenti né complici. Voleva sognare una donna. Il suo piacere avrebbe rovesciato il mondo. Già monaco, già solitario, già pazzo. Cresce un po' per volta. Prima una manona, poi un'altra. Poi due orecchioni. E infine due piedi taglia 56 che sporgono di sotto il risvolto dei pantaloni. Poi la testa, che era rimasta piccola ed è un sollievo vederla gonfiarsi come un melone. E in mezzo due occhi. Meglio che non ci penso. La madre e le sorelle. Tre donne attorno al gigante. Il letto speciale, da mostro. Il cappello, le calze, le scarpe. E quella fame. Che soddisfazione. Creature che non avrebbero avuto se no altro da fare, si dicevano senza dirselo. Via, grazie a questa parentela difficile la vita noi l'abbiamo sfangata. Né le deluse il suicidio, che anzi allora cominciò l'appropriazione e la festa, morto quel grande corpo, finalmente loro. Il libro era cominciato. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Buongiorno, signora Alberti. Sto con un ragazzo da un anno, ma all'inizio non ero innamorata, solo affezionata, tanto che avevo deciso di lasciarlo. Una sera però sono uscita con un amico e abbiamo fatto l'amore. Mi ha fatto schifo. Ho pensato al mio ragazzo, a cosa stavo perdendo. Senza volerlo, mi sono trovata innamorata. Ma ogni tanto ripenso a quella sera. Mi sento in colpa, gliene vorrei parlare. Mi sento di ingannarlo. Ho provato a dirglielo come ipotesi e lui, se mi tradisci ti lascio. Ma un giorno glielo dirò, magari dopo sposati, e del resto, senza quella notte, forse non staremo insieme. Lavinia. Quella notte è stata solo un peccato veniale. Mortale invece è il basso livello di sincerità fra di voi. Se adesso che dici che lo ami non puoi nemmeno raccontargli come è successo. Non è grave il fatto, è grave che tu non pensi ad altro. Io credo che ti abbia fatto meno schifo di quello che dici. Se no non ci avresti costruito sopra una leggenda, un mito segreto. A me pare che il tuo senso di colpa sia la finestrina dalla quale fai entrare la tua nostalgia di questo incontro. La nostalgia dell'avventura. Tu lo stai enfatizzando, gli stai dando un'importanza solenne. Ne stai facendo il centro positivo e negativo della storia col tuo ragazzo. Quella notte è il gesto fondatore. Tu non hai dimenticato. C'è una parabola zen famosissima dove una ragazza davanti a un fiume chiede a due giovani monaci se l'aiutano ad attraversarlo. Uno dei due si scandalizza, dice io mai toccare una donna. L'altro con molta semplicità la solleva e la traghetta. Poi la salutano lì e per tutto il viaggio l'altro monaco lo tormenta scandalizzato. Ma che hai fatto? Hai preso in braccio una donna, l'hai toccata. E lui un po' sopporta, poi alla fine risponde senti, io l'ho lasciata sulla riva. Mentre tu continui a portartela dietro. Ecco, così tu con quella notte. Beate le mie amiche angelicate, le quali dicono che l'amore è uno sguardo, una sensazione. Per me invece l'amore è qualcosa di più robusto. E perciò non solo mi piacciono gli uomini, ma belli e giovani. Mi tengo bene, ma sono sempre una di 52 anni che va dietro ai ragazzi, anzi a un ragazzo in particolare, che sfrutta la situazione, che si rende prezioso come tutti gli altri. Io mi sono affezionata tante volte, loro mai. E bada, non ti parlo di amanti a pagamento, ma di bei ragazzi come ce ne sono tanti. Mia sorella ha sposato un uomo bruttino che l'adora e mi dice, lo vedi? Solo l'uomo brutto sa amare. Sì. Ma a me l'uomo brutto non piace. Quest'anno compirò 53 anni. Io sarò sempre più sciupata, i ragazzi sempre più belli e avidi. Sono stata sfortunata? O la bellezza costringe sempre a essere egoisti? 53 a maggio. Tra poco avrò 34 anni. Un'età terribile per un uomo bello. Da ragazzo nemmeno ci facevo caso al mio aspetto, ma poi persone più grandi di me, uomini e donne, me lo hanno fatto notare. Con regali costosi che avevano un solo fine, il letto. E io, scemo, mi innamoravo. E non mi rendevo conto che stavo diventando una marchetta. Avrei voluto trovare almeno una persona che mi guardasse come un essere umano. Oggi eccomi qua, senza un lavoro, l'università finita a malapena, mio padre mi disprezza e dice che non ci vede chiaro. Questi ragazzi di 18 anni se ne vanno sicuri sui loro muscoli, pieni di brillantina, credendo ciecamente nella loro bellezza. Illusi. Mi ero innamorato di una ragazza, ma appena lei ha capito che genere di vita conducevo è corsa a rifugiarsi da mamma e papà. Mi ha fatto un regalo. D'oro. Posso aggiungerlo alla mia collezione. Casa mia sembra la casa di un ladro, ma il derubato sono io. Una marchetta pentita. Ho letto insieme queste due lettere perché la risposta è uguale per entrambi. Non siete innocenti dei peccati di avidità che attribuite agli altri. Assumetevi la vostra difficoltà a dare. Entrambi mercanti del mercato della bellezza. E non è più misero e temibile Mefistofele se vuole comprarci il corpo invece dell'anima, che come si sa sono la stessa cosa. Ciao Barbara, ho 23 anni. Lavoro part-time, iscritta all'università. Un ragazzo d'oro. Fino a 3 giorni fa. Ora sto male, l'ho lasciato io, affrontando di petto la situazione. Così non va, prendiamoci una pausa. L'ho già fatto un anno fa, ma stavolta lui non piange, anzi, prega le mie amiche di starmi vicina. E sono io che singhiozzo e non mi posso fermare. Ma perché mi manca? Perché soffro e non voglio che soffra lui? Ho provato il vero amore, l'amore bruciante, devastante, con un altro. Ma quando è finita ho sentito il bisogno della tenerezza. Con lui ho perso l'ultima occasione di combinare qualcosa di buono a questo mondo. Volevo solo dirti quanto mi sento inetta e cattiva in questo momento. Di solito scrivono sempre i lasciati, di rado i lascianti. Però finalmente qualcuno parla della sofferenza di chi lascia. Certo non soffre il seduttore di professione, soffre chi ha voluto bene e chi vorrebbe ancora volerne. Per quanto innamorata, io avrei sempre preferito essere lasciata che lasciare. Chi viene abbandonato, per conforto, ha una ricca disperazione. Ama. Chi lascia è condannato al rimpianto. ha lì davanti qualcuno che lo amerebbe. E la ragione, la tenerezza, la voglia di asilo lo spingono verso di lui. Vorrebbe amare, come il muto vorrebbe gridare. Ma è un dono capriccioso l'amore, non gli riesce. E se onesto come te, deve essere il boia di un legame, il guastatore di un sentimento. È difficilissimo lasciare. E ci si volta sempre indietro. Lui mi capiva, che spreco. Ma non è vero che hai perso l'ultima occasione per combinare qualcosa di buono a questo mondo. Hai combinato l'azione più eroica, più difficile. Ti sei resa libera e la paghi duramente. Però pagheresti di più il contrario. Entro in casa e trovo mia moglie, in piedi dietro il divano, che accarezza i capelli di un suo amico, d'infanzia. Mi vede, un lieve imbarazzo, e smette. Poi però li ho trovati abbracciati, ho detto «scusate», e lei mi ha risposto «non devi pensare male, lui è disperato perché è innamorato di una ragazza che lo fa soffrire». Mi è stato facile scoprire che la ragazza che lo fa soffrire è mia moglie. Lei, è vero, lo consola, ma troppo da vicino. Mi ha confessato che c'è stato anche qualche bacio. Lei mi ha giurato che non prova niente per lui, ma che le fa tanta pena. Si conoscono fin dalle elementari e ora che ci penso, fu l'unico dei suoi amici a mancare il giorno del matrimonio. Vorrei credere a mia moglie, che mi piace davvero tanto, ma ho i peggiori sospetti. Faccio male a essere geloso. Lei mi ha detto che niente rende ridicoli quanto la paura delle corna. Norman. Beh, sì, veramente c'è una cosa che rende più ridicoli che avere paura delle corna. Le corna. E tu, Norman, ce le hai. Ce le hai delicate, invisibili, finemente ramificate, dal giorno del matrimonio. Quando lui non è venuto alle nozze e l'assenza nemica di questo amico d'infanzia segna la sua presenza eterna nel vostro ménage. Ma ce le hai forse anche da prima, ce le hai da sempre. Perché lui, il piagnone, quello che si fa consolare dalla sua amata perché non lo ama, è il suo più antico innamorato. Irresoluto, esagerato, lei gli ha preferito te, infatti ti ha sposato. Ma lui come si fa a non consolarlo? Soffre tanto, poverino. Così, mentre tu sei al lavoro, loro due pigolano sull'eterno lamento d'amore. Lui, io ti amo. E lei, io no, levatelo dalla testa. Una stretta di mano, emozione trattenuta, un abbraccetto rubato, un mezzo abbraccio però. E, come ti ha detto lei, con noncuranza, qualche bacio. Qualche bacio. Io che sono di natura gelosa diventerei matta. No, pazienza, fossero andati a letto con soddisfazione reciproca, ma qualche bacio è una confessione che mi farebbe uscire di senno. Senti, se le vuoi bene ti devi rassegnare. Ne hai sposati due, a tua insaputa. Ci sono delle donne che si tirano dietro tutta la vita il cicisbeo lacrimante che si è innamorato di loro quando avevano 6 anni. E non fu mai così affascinante da farsi corrispondere, né così irrilevante da essere dimenticato. In fondo per una donna è una comodità. Qualsiasi cosa accada con te avrà sempre qualcuno da far soffrire, qualcuno al quale negarsi. Dipende da te, sai, se tu hai un carattere impulsivo e rovinoso come il mio, se invece sei fornito di quella saggezza un po' cinica che consente di sopportare una cosa di molto fastidio ma di poco danno, il loro gioco infantile non può veramente farti male. Se sei di quelli che si ingelosiscono soltanto dell'atto sessuale, allora sei un uomo fortunato, perché lui per tua moglie non sarà più importante di una puntata di 100 vetrine. Qualche ora di scemenze che a volte si annoieranno pure, anzi, secondo me si annoiavano di più prima del tuo arrivo, prima che vi sposaste. Ma adesso c'è l'ostacolo vero, adesso ci sei tu e puoi essere tirato fuori come un impedimento, e magari il loro copione sarà più vivace e variato. Io pretenderei una sola cosa, al tuo posto, che al mio avrei già dato fuoco alla casa, di non trovarlo con lei quando torni dal lavoro. Non è giusto che un uomo sia premiato la sera con quelle scenette. Se no uno magari alla fine tira fuori anche 2 schiaffi. A lui mi sembra un bersaglio perfetto, così dopo, come ci dicevano da bambini, piangerà con ragione. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Шарманка шарлатанка, как сладко ты поёшь. Vorrei salutare il tassista Pino, che ho incontrato a Roma in una mia discesa a terra. E mi ha molto colpito, mi ha raccontato che suo figlio è bravissimo negli studi umanistici, si sta laureando in lettere e mi ha detto che lui ne è molto orgoglioso e lo appoggia in ogni modo. E questa è una forma di resistenza, perché conosco invece una ragazza che viene da una famiglia di grandi intellettuali. Lei è anche, come figlio di Pino, molto dotata per il latino, per il greco, e loro l'hanno convinta, questi grandi intellettuali dei suoi genitori, a lasciare questi studi e a laurearsi in farmacia perché dicevano che non c'era un futuro. Bene, il tassista Pino se ne frega del fatto che sulla carta non ci sia un futuro e pensa che ognuno il futuro se lo fa per conto suo e che il miglior futuro è quello fedele al proprio talento, alla propria inclinazione. Quindi grazie Pino per questa testimonianza e molti auguri al tuo studiosissimo figlio Luca. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Sono omosessuale, ma non ho alcun orgoglio della mia condizione, anzi la odio. Aspiro solo alla normalità. Sono il nemico di me stesso. Non è una scelta, è un'imposizione della natura e non l'ho mai accettata. Sono cattolico e penso che sia peccato. Non ho mai praticato, non ho mai conosciuto carnalmente un uomo. Ho una fidanzata che detesto come me stesso e la frustrazione mi consuma. Ho 32 anni, mi sento un uomo perduto. Fingo in ogni istante. Quando sono attratto da qualcuno, diventa una tragedia. Un terribile lavoro di frustrazione. Per favore, non dirmi che sono pazzo. Solo io so quanto mi costerebbe venire allo scoperto. Anzi, meglio diventare davvero un omosessuale. Finché non tocco un uomo, mi sento in salvo. Per questo mi sta cambiando il carattere sempre in peggio. Sono vendicativo, odio tutti perché mi sembrano tutti più contenti di me. Non voglio consigli. Io ti ho scritto per dirlo a qualcuno, lo faccio ogni tanto. Scrivere anonimamente ai giornali o alle radio, restando nascosto, mi dà qualche piccolo sollievo. Voglio vivere così per sempre. Per quanto mi fa soffrire questo tipo di vita, soffrirei di più se cedessi. Io non penso che tu sia matto, però sicuramente rischi di diventarci, perché andare con tanta violenza contro la propria inclinazione è il passaporto per l'inferno. I danni che si possono fare a sé e agli altri sono inimmaginabili. Tu dici che non vuoi consigli, io non te li do. Mi limito a raccontarti una storia, riflessi in un occhio d'oro. Da poco ho rivisto in una rete TV minuscola il film tratto dal romanzo della scrittrice Carson McCullers, un film supremo, con un Marlon Brando e una Elizabeth Taylor al massimo del loro splendore artistico e anche fisico. Il film si svolge, ripeto il titolo è Riflessi in un occhio d'oro, si svolge in un campo militare della Georgia e fra le villette degli ufficiali, le cui famiglie vivono in una contiguità pigra e soffocante, tutti sanno tutto l'uno dell'altro. Il protagonista è il tenente Pemberton, Marlon Brando. Una interpretazione magnifica di questa omosessualità completamente repressa. Ed è sposato con Leonora, che è Elizabeth Taylor, di una bellezza esplosiva, egoista, infedele, stupida, sciattona. Lui non è che non la ami, lui la odia. Gli dà proprio un grande fastidio e non osa manifestarle la sua repugnanza perché lei è forte, ne ha paura, e allora sadicamente tortura il cavallo di lei. Leonora, cioè Elizabeth Taylor, è l'amante del vicino, il colonnello Langdon, che è superiore in grado di Pemberton. Brando lo sa, cioè Brando il marito, lo sa e fa finta di niente. E sotto sotto ne è pure contento ed è ancora più accondiscendente col colonnello. Gli è grato perché gli risparmia il disturbo della sensualità torrida di questa donna del sud nel fiore del desiderio. Perché a Pemberton piacciono i maschi, ma piacciono i maschi in una segretezza morbosa, come nel tuo caso, e la cosa, come anche nel tuo caso, lo disgusta. Lui è un soldato, ha il mito della forza virile ed è innamorato pazzo di un soldatino, il soldato Williams. Non volendo dimostrarla, la sua passione si sfrena in forma invisibile agli altri. Per esempio fa delle cavalcate a rompicollo per andare a spiare il soldatino che fa il bagno nudo nel fiume. E poi lo segue per la strada e si appaga del suono dei suoi passi, del suo odore che gli viene da lontano. Il soldato Williams, però, è innamorato della moglie di Pemberton, della bellissima Leonora. E anche lui la spia, l'adora da lontano. Quello che fa Marlon Brando con lui, lui lo fa con la moglie di Marlon Brando, mentre il marito, appunto, si ragiona per lui. Leonora, la moglie di Pemberton, è un'oca straripante e radiosa. Il cavallo di lei disarciona il marito e allora il tenente Pemberton lo frusta e lo bastona selvaggiamente. E lei, la moglie, davanti a tutti allora, anche davanti al soldatino, lo frusta in faccia come lui ha fatto con la bestia. E intanto Pemberton segue il soldato con adorazione da lontano. A un certo punto il soldato butta via un pezzettino di carta, la pallottola e lo butta via. Sarà un biglietto del cinema, un volantino, una cosa qualsiasi. E allora Pemberton a casa lo spiega bene bene e lo nasconde in una scatolina. Intanto di notte il soldato si introduce nella camera di lei e la guarda dormire e aspira il suo profumo dalle boccette e aspira questo profumo su di lei e tocca la biancheria e la bacia. Ci sono altri due personaggi interessantissimi nel film e nel libro. La moglie del colonnello, Alice, trascurata, raffinata, dolce, tradita da sempre da quel brutale soldataccio che è il marito, e Anacleto, il cameriere filippino, che è per Alice la salvezza, la gioia, il compagno di giochi. Anacleto dipinge, danza e ha un senso del bello in ogni cosa e sa vedere la bellezza, e infatti la vede in questa esile moglie del colonnello. Fra di loro è un grande amore non consumato. Hanno la stessa sensibilità, lo stesso desiderio di gioia. Sono due creature purissime che fanno dell'essere trascurati la loro fortuna, perché nessuno bada al loro sodalizio e quindi nessuno glielo rovina fino a un certo punto. È uno degli amori più belli mai raccontati. Alice e Anacleto stanno sempre insieme, ascoltano Rachmaninoff e lui dipinge acquerelli, fra cui un pavone con un bellissimo occhio d'oro che dà il titolo al libro e al film. Lei, Alice, la signora Langdon, dice ad Anacleto: «Sei felice, Anacleto?» E lui: «Se voi state bene, sì, madame Alice». A lei non importa che il marito vada a letto con la Taylor. Lei è Anacleto, finché un giorno si rende conto che non ha bisogno di nessuno, che non ha bisogno di suo marito, e decide di andarsene con Anacleto e di lasciare il colonnello. E allora questo militare finto bonario si rivela una belva. Quando il marito capisce che lei se ne vuole andare per davvero, fa passare la sua mite originalità per pazzia e la interna in un postaccio di lusso, un manicomio praticamente, e le dice: drogati, alcolizzati, pazzi, una eletta compagnia. Lei se ne va lì con Anacleto e muore subito di dispiacere. Da quel momento il colonnello non parla che di Anacleto, gli manca da morire, perché dopo la morte di Alice Anacleto si dissolve, vorrebbe solo che rispuntasse come una risurrezione della moglie, anche se non capisce niente, e dice a Brando: peccato Anacleto, se avesse fatto il soldato gli avrebbero lisciato il pelo, sarebbe diventato un uomo, e non capisce che 100.000 volte più uomo di lui. E continua: è davvero penoso un uomo della sua età che balla sulle punte e dipinge tutto il giorno figure fantastiche. Brando, che ha fatto le sue riflessioni, risponde cautamente: così per te qualsiasi progresso a discapito della normalità è sbagliato? Io penso il contrario. E astratto, per conto suo, come sempre, senza transizione, fa un ispirato e straziante sermone nostalgico di elogio della vita militare. Dice: i soldati dormono insieme e fra di essi si stabiliscono amicizie più solide della paura della morte. E poi, a proposito della normalità, dice: ma se uno ha una vite rotonda, perché ostinarsi a volerla far entrare in un buco quadrato? Dovrà invece trovarne uno della sua forma. E parla di sé, naturalmente, è quello che lui non osa fare. E continua intanto il triangolo. Lui continua a seguire il soldatino Williams e il soldatino Williams continua a seguire la bella Leonora. Dopo che lo ha pedinato per un bel po', il ragazzo se n'è accorto. Il ragazzo si è accorto benissimo che la passione che lui prova bruciante per questa moglie è uguale alla passione che il marito prova per lui. Una sera, mentre il tenente Pemberton segue il soldato Williams, lo vede entrare in casa e non ha dubbi, è per lui. Lui non sa che il soldato spia la moglie, quindi pensa che finalmente ha capito la sua corte da lontano e che voglia incontrarsi lui. E c'è un momento di cinema meraviglioso. Si preoccupa solo dei capelli, se li ravvia con un gesto di grandissima tenerezza e al buio lo aspetta, pensando finalmente di mettergli le mani addosso. E invece si accorge che lui è entrato in camera della moglie. lo becca proprio sul più bello mentre lui sta aspirando questa biancheria, mentre guarda questo meraviglioso corpo dormiente. Appare sulla porta, la scema dorme, ignara. Il soldato lo guarda e Pemberton, a bruciapelo, gli spara 4 colpi e lo ammazza per una gelosia che lui soltanto sa. Tutti penseranno che lo ha fatto per gelosia verso la moglie. E finisce con le grida di lei e una scritta: c'era un forte militare nel sud dove un delitto fu commesso. Il delitto del tenente Pemberton in fondo è simbolico, perché il delitto più grande che lui ha commesso è la negazione del proprio sé più profondo. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. L'ho lasciato per il suo comportamento ignobile. A me non aveva fatto niente, ma mi vergognavo di lui perché era un gran leccaculo. Se qualcuno gli poteva essere utile, era capace di lodarlo senza pudore. Il culmine l'ha raggiunto quando eravamo ospiti nella villa del suo capo. Era in ginocchio davanti a quell'ometto che lo umiliava. Una sera gli dice davanti a me: «Stasera dovreste cenare in camera perché vengono delle persone importanti». Io ho detto: «Io ceno a casa mia, sto andando via». Gli ho girato le spalle e sono fuggita come il vento, senza salutare nessuno. Lui è rimasto. Non ho voluto vederlo più. A morte il leccaculo. Non c'è di peggio nel mondo. La sincerità è tutto. Fatima. Ma senti Fatima, impeccabile e lodevolissima la tua fuga di quella sera. Però io non condivido questo odio totale per il leccaculo in generale. Alcuni di coloro che tu stai esecrando, giustamente, sono utilissimi. Ti dirò che io su certuni ci conto. E comunque la vita è tutta una moina. Il mio amico Claudio Ciaravolo anni fa aveva un sito internet intitolato Facimme Moine ed era frequentatissimo. A parte il tuo ex, che è un caso patologico, che è un servo nato, ha proprio una limpidissima vocazione di servitore, da giovane la pensavo come te. Trovavo le persone manierate orribili. Poi ho capito che l'uomo, cioè noi, siamo tanto cattivi che meno male un po' di finzione sociale. Pensa se fossimo veramente sinceri. Esci la mattina, incontri il tuo vicino, ti è antipatico, pa, uno schiaffo. Un conto è il servizio, un conto è la forma. La forma è confortevole, l'adulazione no, però un po' di ipocrisia sociale. Pensi che ti incontro, ma quanto sei brutto, ma che ti è successo, ma come ti sei sciupato. Neanche prima eri un granché, però adesso fai schifo. Ecco, per esempio, ecco, queste sono cose inopportune, è bene fingere. Oppure, non so, ma lo sai che hai le corna? Come sta quella vecchia schifosa di tua madre? Insomma, io trovo che sia preferibile queste manifestazioni di sincerità, la forma. E poi c'è una grande differenza tra il leccatore e il complimentatore. Sono due entità completamente diverse. Come in ogni vizio ci sono i simpatici, gli antipatici, chi lo fa bene e chi lo fa male. Mica sono tutti uguali, ci sono anche gli artisti sopraffini, quelli che te lo fanno credere. L'adulazione è come il rammendo, deve essere invisibile, non si deve vedere. Io, essendo una vera vanitosa, non sopporto il leccatore comune perché mi inorgoglisce un elogio meritato. Quello mi dà sicurezza, invece un elogio finto ti fa sentire ancora più disgraziata. Certo, gli adulatori compulsivi sono angosciosi perché ti fanno questi elogi sperticati che secondo me vengono da pertica, nel senso che ti vogliono tenere lontani, come se con una pertica ti tenessero lontani. Ed è un modo per eludere un vero rapporto. Io, per esempio, il gusto dell'elogio ce l'ho. Se odio, odio. Ma se amo, amo. Fortemente, allegramente, caninamente. Io mi rallegro se amo una persona della fortuna di averla vicina. Se una persona è bella, intelligente o spiritosa, ma io lo dico mille volte. È un elogio a se stessi, perché sottolinea la soddisfazione di avere sott'occhio una tale meraviglia umana. Io sono sensibile all'adulazione, però deve essere fatta veramente bene. E da lì scaturiscono sempre guai senza fine, perché le situazioni false danno dei dolori molto veri. Oh, mi scrive una mamma. Sono la madre di due ragazzi di 10 e 12 anni e sono fra quelli che si battono per eliminare questa schiavitù dei compiti a casa. Io lavoro fino alle 3 e poi sono costretta a passare tutto il pomeriggio con loro. Fra temi e problemi non ho più un momento per me. Nei weekend andiamo sempre fuori e anche lì questo incubo dei compiti. Spero che vorrei dire anche tu due parole a favore di questo provvedimento così necessario. Non ho dubbi che con la tua apertura tu sia sulla mia stessa posizione, Miranda. No, Miranda, mi conosci male. Essere aperti non vuol dire essere dei colabrodi. Si è aperti alla conoscenza, ai lumi, all'immaginazione, ma non alle stupidaggini perniciose. Io sono sulla riva opposta alla tua e ti guardo pure in cagnesco, perché quest'idea di eliminare i compiti a casa mi sembra un paradosso di un comico. Infatti con Lodi lo mette in Pinocchio in altra forma, quando il burattino sogna di andare nel paese di Balocchi, perché lì la settimana è fatta di 3 domeniche e 4 giovedì, all'epoca il giovedì era festa, e così non si va più a scuola. Ma come, Miranda? Ci si è tanto battuti per il diritto all'istruzione e adesso ci si batte per il diritto all'ignoranza. È come battersi per il diritto alla fame. Certo che l'ideale sarebbe che i ragazzi uscissero dalla lezione avendo già imparato, ma qui noi non parliamo della scuola ideale. Noi parliamo della scuola italiana semidistrutta dalla riforma Gelmini, parliamo di una scuola tagliata, questa parola con questo clang di ghigliottina che si porta dietro, con classi di 30-35 ragazzi, una scuola di poche ore rispetto ad altri paesi. E qui, in questo disastro di sovraffollamento, di tagli, occorrerebbe essere dei campioni dell'attenzione, della memoria e anche della volontà per uscire già imparati, come dicono a Napoli. Non ci vorrebbe un insegnante per questo, ma un demiurgo con poteri divini per infondere il sapere a 30 ragazzini tutti insieme. Quando ero bambina, i genitori erano ancora i genitori e volevano che diventassimo grandi. E ci indirizzavano, ma i compiti li dovevamo fare noi. Mio padre era professore di matematica, era affettuoso, era presente, ma non mi ricordo che mi abbia mai fatto i compiti o fatto i compiti con me. Qualche volta un aiuto se lo chiedevo e poi mi spiegava se non avevo capito, ci provava gusto a rivelarmi la materia perché aveva questo dono poi di renderla facile. Ma i compiti erano affar nostro, erano il nostro compito, pensa al significato della parola, il nome è importante, un compito da portare a termine con le proprie forze. Un compito è un impegno, è una prova che il ragazzo affronta da solo, magari con un compagno, però uno alla pari, uno che come lui cerca di capire e magari ci arrivano insieme. Tu dici, sono costretta a fare i compiti con loro, ma cosa ti costringe? Se non il fatto che siete di quei genitori che non sono mai diventati genitori, che sono rimasti figli e vogliono tenere i figli in uno stato di eterna infanzia, senza gioia, come loro. Siete la generazione consumista, quella che per definizione non doveva mai crescere e difatti non è cresciuta, e vuole impedire di crescere anche ai figli, vuole impedire di diventare persone, o semplicemente diventare. Si diventa trovandosi soli davanti al proprio dovere e alle prove e dimostrando se stessi che ce la fai da solo, compiendo l'impresa. Tenete questi figli col guinzaglio del telefonino, tenete questi figli adulando la loro pigrizia, scientificamente formando degli irresponsabili, ovvero voi formate persone senza forma. E poi lo sapete quanto sono già asini i vostri figli in questa pessima scuola. Non basta, li volete ancora più asini. Siete quei genitori che li privano del tormento dei compiti, di quello sforzo solitario dell'apprendimento, del gusto della scoperta. Mi spiace citare di nuovo il fin troppo citato Pasolini, spesso a sproposito che ormai esce dalle orecchie, ma qui ci vuole proprio. E quindi vi leggerò la postilla in versi di Pierpaolo Pasolini, postilla in versi alle Lettere Luterane, che uscì da Einaudi nel 1976, poco dopo la sua morte. Signor maestro, abbiamo visto il diavolo dell'angelo nero come Luciano Sarracino. Gridate, gridate, viva Benjamin Spock, ci fa. Occorre la bacchetta. Siamo stanchi di diventare giovani seri, o contenti per forza, o criminali, o nevrotici. Vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare. Non vogliamo essere già così sicuri. Non vogliamo essere subito così senza sogni. Sciopero, sciopero, compagni, per i nostri doveri. Signor maestro, la smetta di trattarci come scemi, che bisogna sempre non offendere, non ferire, non toccare. Non ci aduli,